2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, una nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Benvenuti o bentornati. Ci sono vari modi per comunicare con noi, io preferisco la posta elettronica, ma c'è chi continua anche a scrivere su Facebook, potete utilizzare anche quel canale o anche Twitter. Comunque, 2024 e radio24.it, Facebook e Twitter, cercate Enrico Pagliarini o 2024 per partecipare alla discussione, anche per suggerire alcuni temi, idee di qualsiasi genere. Ad esempio, in questa puntata uno degli approfondimenti è realizzato grazie ad uno dei suggerimenti dei nostri ascoltatori. Dunque, parleremo con i nostri ospiti più tardi di eredità digitale. Sta cambiando veramente la nostra vita, perché se pensate a uno dei ricordi per antonomasia, cioè le fotografie, una delle cose più preziose quando si parla di un ricordo di famiglia, oggi molte delle nostre fotografie sono salvate non sul nostro smartphone o sulla nostra macchina fotografica in locale, ma sempre più salvati nel cloud, e la cosa è legata ad un account, al nostro account. Che cosa succederà quando noi non ci saremo più? Qual è l'eredità digitale? Che cosa dicono le norme? Allora, ne parleremo più tardi. Come spesso facciamo, iniziamo la nostra puntata con alcune notizie in breve tra le più importanti della settimana, condensate nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da grandi stazioni che assieme a Fastweb questa settimana ha annunciato l'attivazione di un servizio di Wi-Fi gratuito in 14 stazioni ferroviarie italiane. La connessione è già attiva in quelle di Roma Termini e Tiburtina, Milano Centrale, Napoli Centrale e Torino Porta Nuova. E poi c'è anche una app che si può scaricare sullo smartphone sia per iOS che per Android, si chiama Around Station. Si possono utilizzare anche alcuni servizi geolocalizzati all'interno della stazione, soprattutto nelle aree commerciali, come ad esempio vedere dove sono i negozi, le promozioni attive al momento nei negozi dell'area commerciale e ovviamente anche gli orari dei treni essendo in stazione. Digital News. Nell'ultimo anno e mezzo Google ha rimosso circa 440.000 link relativi a notizie su una persona ritenute oramai inadeguate o non più pertinenti. Si tratta di cancellazioni legate alle richieste di persone che si rivolgono a Google sulla base della sentenza della Corte di Giustizia Europea sul diritto all'oblio, il diritto di essere dimenticati, che garantisce il diritto a vedere cancellati sui motori di ricerca i link a notizie non più utili. Però attenzione, non tutte le richieste vengono accettate, perché la sentenza definisce un perimetro all'interno del quale ci sono poi margini di interpretazione, e quindi c'è un apposito comitato, cioè ci sono delle persone di Google che si occupano di questa attività. L'Italia è il quinto paese in Europa, perché la sentenza si applica all'Europa, per numero di richieste. News. Abbiamo parlato recentemente di Axel Springer, che è l'editore della Bild, che blocca i contenuti a chi usa un filtro per la pubblicità, un ad blocker. Ne abbiamo parlato recentemente, c'è proprio una puntata in cui ci siamo occupati in modo particolare di ad blocker. Allora, adesso questo editore, l'editore tedesco, ha fatto causa a Blocker, che è uno dei tanti filtri disponibili su smartphone. La sentenza definitiva dovrebbe arrivare verso la metà di dicembre. Oltre alla Bild, anche altri editori hanno cominciato a bloccare i contenuti a chi blocca la pubblicità. Yahoo, ad esempio, sta sperimentando la possibilità di inibire l'accesso all'email gratuita a chi usa un ad blocker. Il senso è: io ti do un servizio gratuito, ma in cambio c'è un po' di pubblicità da visualizzare. Se tu blocchi e filtri la pubblicità, io ti blocco questo servizio. Idem, così come in altri casi, per i contenuti. E sarà sicuramente una battaglia dei prossimi mesi, dei prossimi anni. Vedrete che la cosa monterà molto nei prossimi mesi tra consumatori ed editori. Questa settimana è stata presentata la ricerca sul mercato del lavoro elaborata dal sistema informativo Excelsior di Union Camere e Ministero del Lavoro, e nonostante la disoccupazione, nonostante i problemi dell'economia, ci sono settori dove non si trovano professionisti e quindi ci sarebbero posti di lavoro. Allora, non parliamo di milioni di posti di lavoro, ma parliamo di decine di migliaia. E sono proprio le professioni legate alla digital economy, quindi è per questo che parliamo di lavoro a 2024. Recentemente giustamente più di un ascoltatore ci faceva notare questo, che ogni tanto i nostri ospiti citano, cioè il problema di trovare professionisti in settori molto nuovi dove nemmeno le università riescono a preparare professionisti. Però non ne preparano nemmeno in settori limitrofi. Ne abbiamo parlato con Domenico Mauriello, lo ha sentito in settimana Maria Piera Ceci. Mauriello è responsabile del centro studi di Union Camere. Andando a leggere tra le righe si scopre attraverso la domanda di professioni come sta cambiando il nostro mondo produttivo, come sta cambiando il mondo delle imprese, tant'è che rispetto al passato le professioni che tradizionalmente vedevamo sul podio degli introvabili sono scese in graduatoria e quest'anno le prime posizioni, ad esempio per i laureati ma anche per i diplomati, fanno riferimento al mondo del digitale. Fra i laureati appunto alcuni indirizzi specifici di ingegneria sono quelli oggi più richiesti e per i quali c'è un disallineamento rispetto ad un'offerta che molto spesso non riesce ad essere guidata verso la domanda espressa dalle imprese per un orientamento non sempre efficace da parte non tanto delle scuole quanto soprattutto delle famiglie. E fra i diplomati aumentano le difficoltà per quelli ad indirizzo delle telecomunicazioni, indirizzo informatico, quello grafico, tutte figure professionali che possono avere un maggiore sbocco attraverso lo sviluppo della digital economy. Questo è interessante, avete sentito, ci sono naturalmente problemi all'interno del sistema educativo, ma uno dei problemi della mancanza di orientamento è nelle famiglie, cioè le famiglie non capiscono che il mondo sta cambiando e molte professioni già di oggi ma del futuro saranno legate al mondo della tecnologia. Ci sarebbero mille professioni che potremmo elencare, ma sicuramente una buona chance ce l'avranno, ce l'hanno già oggi gli ingegneri, matematici, gente che è capace di usare il software e fare anche analisi utilizzando il software. Se pensate a molti dei mondi che stiamo costruendo, molti di questi mondi puntano alla raccolta di dati, questi dati poi vanno elaborati. Ne abbiamo parlato anche recentemente, i cosiddetti data scientist, quindi persone in grado di elaborare dati utilizzando poi la tecnologia, sono persone che sono già oggi già, ma sempre più lo saranno nel futuro, molto molto richieste. E comunque se uno pensa a tutte le cose di cui parliamo 2024, quasi tutte queste tecnologie, questi nuovi servizi hanno bisogno di professionisti. Pensate ad esempio alla pubblicità, che si sta spostando molto sull'analisi dei dati, di quello che succede nella interazione tra consumatore e aziende. Dunque adesso cambiamo argomento, parliamo di spazio, perché questa settimana non ha fatto grandissima notizia, ma c'è stato un test che molti definiscono storico. Allora, tra le tante società private che stanno sperimentando razzi e navicelle per andare nello spazio, ce n'è una che è di proprietà di Jeff Bezos, che è il fondatore di Amazon, ma è lui che finanzia direttamente questa società, che si chiama Blue Origin. Questa società ha un razzo molto particolare che si chiama New Shepard, e questa settimana ha fatto con successo un test, è stato lanciato nello spazio ed è riatterrato in verticale. Una cosa abbastanza singolare, ma se uno segue quello che sta accadendo nel mondo dell'industria aerospaziale non è poi così tanto originale, perché c'è almeno un'altra società, che è SpaceX, che sta cercando di fare la stessa cosa. Il motivo principale è che una delle cose che costano di più quando si lancia qualcosa nello spazio è il razzo, che lo sappiamo quasi tutti è a perdere per buona parte. Sì, ci sono dei razzi che ricadono nell'oceano con il paracadute, come facevano quelli dello Space Shuttle, ma uno dei costi più grossi da sostenere è appunto quello legato al razzo. Se io riesco a recuperare questa parte, ho fatto bingo, e quindi riesco ad abbassare di molto il prezzo. Perché questo esperimento riuscito può essere considerato storico e un passo molto importante per l'industria aerospaziale e in modo particolare per l'industria aerospaziale privata e anche per il turismo spaziale. Ce lo spiega Luigi Bignami. Questa società ha come scopo quello di portare dei turisti nello spazio e non vuole portarli in orbita attorno alla Terra, ma vuole portarli fino a circa 100 km d'altezza, che è la quota, l'altezza da dove ufficialmente inizia il vuoto cosmico. Allora vorrebbe portare lassù 3-4 turisti per volta, i quali, una volta raggiunta questa quota, possono per 3 o 4 minuti vivere l'esperienza dell'assenza di gravità, guardare la Terra, vedere la sua circonferenza, quasi un po' come gli astronauti, anche se gli astronauti della stazione spaziale sono a 400 km. Però tutto questo deve avere dei costi contenuti, non milioni di dollari come spendono i turisti che vanno alla stazione spaziale, ma soltanto qualche centinaio di migliaia di dollari. Ebbene, allora questo lancio è stato molto importante perché ha portato a 100 km una navicella che è ritornata a terra con un paracadute sulla terraferma e la navicella può volare di nuovo, ma anche il razzo che è partito da una base nel Texas è ritornato sulle sue zampe e quindi può essere riutilizzato. Allora questa è la strada per far sì che i voli costino poco. Non si è riusciti a costruire uno shuttle che permetta di andare avanti e indietro. La Virgin sta tentando di costruire questa navetta che, agganciata ad un aereo, possa arrivare alla medesima quota e ritornare a terra con un aereo facendo provare le medesime cose, ma costerà molto di più che non questo razzo perché è semplice nella sua struttura. È molto complesso però farlo ritornare in piedi e la Blue Origin c'è riuscita. In un precedente tentativo il razzo si era appoggiato ma poi era caduto, non si è capito bene, in parte fu dovuto a una folata di vento, in parte fu proprio la struttura stessa che non riuscì a tenere in piedi il razzo. Questa volta invece è andata alla perfezione e le immagini ci hanno mostrato questo ritorno quasi fantascientifico di questa parte proprio del razzo che è tornato in piedi su una piazzola. Esatto, ci sono dei retrorazzi che frenano la caduta del razzo e quindi lo fanno atterrare dolcemente in questo ritorno controllato. Quindi diciamo il razzo va ricaricato e si può ripartire dopo magari non poche ore, ma dopo pochi giorni sostanzialmente. Certamente, si devono fare tutte le prove per verificare che non ha subito problemi durante l'ascesa e il ritorno a terra, ma si ricarica come un'automobile con il suo carburante e si ritorna nello spazio. Senti, tu hai citato Virgin Galactic, noi abbiamo tra l'altro intervistato, e lo ricordo ai nostri ascoltatori che possono andare nell'archivio a riascoltare quell'intervista, uno dei nuovi piloti che è un italiano, di Virgin Galactic. Sono sostanzialmente queste due le società che fra un paio di anni grosso modo cominceranno a proporre viaggi in questa zona suborbitale in assenza di gravità, e quindi Virgin Galactic da una parte e Blue Origin dall'altra, o ci sono altri che stanno tentando questa strada? La strada di portare turisti in un volo suborbitale, cioè senza arrivare in orbita attorno alla Terra, sono solo queste due le società che vogliono avere questo obiettivo, perché i costi sono piuttosto contenuti. C'è un'altra società privata che vorrebbe portare dei turisti fino a 30 km d'altezza con una gondola, con un pallone, e già 30 km è una bella quota, però naturalmente non si è a 100 km, non si vede ancora lo spazio proprio buio, nero, come lo vedono gli astronauti. Le altre società, soprattutto la SpaceX, invece sta lavorando molto per portare gli uomini in orbita attorno alla Terra e ormai ha tutte le credenziali per poterlo fare. Costi molto più elevati, però la strada ormai è aperta. Però qui stiamo parlando di attività spaziali vere e proprie, giusto? attività spaziali, però c'è tutto, diciamo che se funziona con degli astronauti può funzionare anche con dei privati, perché ormai il privato sta veramente conquistando diciamo ciò che c'è al di fuori dell'atmosfera terrestre. C'è una società, la Bigelow, che ormai sta costruendo in pratica una mini stazione spaziale fatta con dei gonfiabili. Uno di questi gonfiabili verrà portato alla stazione spaziale per vedere nell'arco di 2 o 3 anni come si comporta, e addirittura la NASA ha chiesto alla Bigelow di portare avanti questo progetto, perché potrebbero essere proprio dei gonfiabili di questo tipo che si potrebbero utilizzare quando la NASA andrà in orbita attorno alla Luna per le prime prove dei grandi viaggi che vedranno l'uomo andare verso gli asteroidi e verso Marte. E questa Bigelow, che ha già lanciato 2 piccole stazioni spaziali da diversi anni e che hanno funzionato perfettamente nello spazio, dice che se qualcuno gli dà la possibilità di portare degli uomini, non ci vorrà nulla, creare 3-4 grandi palloni di questo genere e creare una stazione spaziale per privati, quindi senza strumentazioni e così via, ma quel comfort che diciamo richiederebbero dei privati che vanno lassù per passare 4-5 giorni nello spazio attorno alla Terra. E SpaceX ha detto io ci sto, lavoriamo insieme verso questo progetto. Quindi nell'arco di una decina d'anni, secondo me, ci saranno davvero degli sviluppi molto molto interessanti. Tutto ciò, ed è l'ultima domanda, è finanziato da aziende private. A questo punto, diciamo che a parte i russi e i cinesi, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche un po' in Europa, si sta fortemente spostando il business dello spazio verso i privati. Esattamente, ecco, siamo ancora in una fase dove non sono tutti soldi da parte di privati, c'è una certa percentuale, ma ci sono anche dei finanziamenti da parte della NASA, la SpaceX, la Boeing per esempio, hanno avuto e hanno ancora delle sovvenzioni da parte della NASA. La NASA ha fatto un ragionamento molto semplice, ha detto ok, per lavorare nello spazio qua vicino fino alla Luna e chissà forse anche verso Marte, ci dedichiamo, diciamo, facciamo sì che sia il privato a prendere l'iniziativa. Io ti do alcuni finanziamenti, però tu porta avanti questo tipo di lavoro, il lavoro di trasportare gli astronauti avanti e indietro dalla Terra alla stazione spaziale e anche verso la Luna. Noi della NASA costruiamo il nostro razzo, le nostre navicelle, eccetera, per la ricerca scientifica. E quindi ecco l'obiettivo 2033 è l'obiettivo Phobos, la Luna attorno a Marte, e lì dovrebbe essere il primo lancio veramente importante di un passo successivo dell'umanità. E questo è l'obiettivo NASA, la ricerca scientifica, l'esplorazione vera e propria. Ai privati è dato questo tipo di lavoro molto molto interessante. Ma io sono convinto che se la SpaceX riuscirà a costruire il Falcon 9 pesante, come lo chiama lei, cioè un razzo paragonabile a quello che sta costruendo adesso la NASA, con la sua navicella che può portare fino a 6 astronauti, beh, secondo me è difficile che non cercherà di sfidare, magari con tante altre industrie e così via, di sfidare la NASA per portare degli uomini a Marte. Insomma, ne vedremo delle belle. Esatto, Luigi, grazie per essere stato con noi, a presto. A presto, buona giornata a tutti. Primi voli nello spazio previsti sia per Blue Origin che Virgin Galactic 2017, quindi non siamo tanto lontani, poi magari ci sarà qualche ritardo, 2018-2020, esageriamo, però insomma stiamo abbastanza vicini a questa era che per i primi anni sarà una cosa veramente per persone molto molto ricche o qualcuno che si vuole giocare buona parte dei risparmi o tutti i risparmi per andare nello spazio. Si parla di prezzi da 100-200 mila euro, però pensate che insomma, magari fra 10 anni questi prezzi si abbasseranno moltissimo e questo turismo diventerà sicuramente più sicuro, ma anche più economico, quindi alla portata di molte più persone. Quindi uno potrebbe, che ne so, rinunciare all'acquisto dell'automobile e farsi un bel viaggio nello spazio, che per il momento, che per i primi anni saranno insomma esperienze di poche ore, però potrebbero anche diventare di molto, molto più lunghe. L'intervista integrale che abbiamo fatto a Luigi Bignami la ascoltate nella versione podcast di 2024. Dunque adesso torniamo sulla Terra. Uno dei problemi che noi abbiamo, e lo sperimentiamo tutti i giorni, è il traffico cittadino. È un problema per noi che ci muoviamo nelle città, soprattutto nelle città il problema esiste. Buona parte di questi problemi sono legati ai parcheggi, ma anche la gestione di tutto questo caos cittadino è un problema per la pubblica amministrazione. C'è chi sta pensando già da tempo a digitalizzare tutto questo, sia per quanto riguarda il lavoro cosiddetto di back office, quindi quello che noi non vediamo nella gestione, che ne so, degli accessi alle aree, nelle zone a traffico limitato delle città, ma anche per quanto riguarda i parcheggi. Ma può essere digitalizzata anche la nostra parte, quello che noi facciamo come cittadini per pagare il parcheggio, per trovare il parcheggio, oppure per sapere se possiamo entrare o no in una certa area e se eventualmente poi ci prendiamo la multa o se dobbiamo pagare una quota. Molte città anche in Italia hanno questo problema. Ne parliamo con Paolo Lanari, che è amministratore delegato di QNSIS, scritto con la Y finale, QNSIS. Comunque sul nostro sito internet trovate anche un link. Benvenuto 2024, Lanari. Grazie. Che cosa può fare un cittadino utilizzando le tecnologie che voi mettete a disposizione dei comuni, di fatto, in tutto il mondo? Quello che noi abbiamo fatto e stiamo facendo è dare la possibilità a qualunque utente via app, fondamentalmente, volendo anche via web, ma prevalentemente via app, di utilizzare l'app per capire in tempo reale la strada o la destinazione a cui deve arrivare, a quali regolamentazioni è soggetta. Quindi sostanzialmente permettergli di chiedere all'utente in tempo reale l'autorizzazione ad un ingresso, un permesso all'ingresso o eventualmente, laddove sia dovuto, il pagamento di un'autorizzazione. E posso anche pagare tramite app? Assolutamente sì. E a questo punto uno potrebbe dire: ma lo posso fare anche con altre app? La differenza fra noi e altre app è che altre app per ora sono concentrate soltanto sul pagamento della sosta, che uno e nemmeno il principale processo con cui vengono gestite tutte le reti viarie. Quindi noi gestiamo tutti i processi dal carico e scarico merci fino alla sosta, passando per permessi diversamente abili, residenti e tutte quelle che sono le complesse bus turistici. Assolutamente, quindi li gestiamo veramente tutti. Sì. Voi avete digitalizzato tutti questi processi anche nel cosiddetto back office, cioè in tutta la parte gestionale del comune, visto che stiamo parlando poi di comuni e non di aziende. Sì. Perché oggi si usa molta carta ancora. Viene ancora utilizzata moltissima carta. Noi anzi, diciamo, abbiamo preferito un percorso aziendale forse un po' meno evidente, un po' meno glamour, chiamiamolo così, ma un po' più strutturato. Quindi questo per dire che non abbiamo soltanto l'app, ma abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare pesantemente ogni giorno sul back office, che poi è il cuore che resta, che gestisce la città. Quindi la parte del back office che è in cloud. Certo, quindi vuol dire che lato municipio c'è la possibilità di vedere in tempo reale quello che sta succedendo nella città, chi entra, chi esce, chi parcheggia, eccetera. Chi entra, chi esce, chi parcheggia e tutto quello tutti quelli che lavorano sulle strade. Lavorano sulle strade con le polizie municipali, ausiliari del traffico, pattuglie, persone allo sportello. Cioè una città media di 100.000 abitanti avrà quotidianamente circa 50 persone che lavorano perché la città funzioni bene dal punto di vista della mobilità. Nel sistema che voi proponete per la gestione della mobilità urbana ci sono anche sensori di parcheggio, e tra poco vorrei capire che cosa servono, che cosa si può fare, ma anche dei tag RFID è una tecnologia a radiofrequenza, chip che possono essere letti a distanza con delle antenne. Una cosa simile, ma non uguale, c'è anche in quasi tutti gli smartphone con il cosiddetto NFC, Near Field Communication, ma in questo caso stiamo parlando di comunicazione a brevissima distanza con questi tag, che sono anche degli adesivi, cose molto semplici, che dentro hanno un'antennina con un chip. Ecco, questi invece possono essere letti anche a distanza di molti metri. Molti sanno che ad esempio il Telepass è un tag RFID attivo perché ha una batteria ed è una tecnologia che potremmo dire anche un po' vecchiotta. Invece oggi, da qualche anno, vanno molto i tag passivi, che possono appunto essere letti a distanza di metri. A che cosa servono? Allora, i tag RFID servono a identificare elettronicamente un veicolo. Quindi la nostra visione è che nel grande mondo dell'IoT e quindi dell'internet delle cose, anche una macchina deve avere un'identità digitale. Quindi abbiamo optato per l'utilizzo dell'RFID, che è una tecnologia, diciamo, economica da un lato, quanto potente nelle performance dall'altra. E oggi ne abbiamo distribuiti fra gli 800.000 e 1.000.000, e questo ci permette sostanzialmente di associare ad ogni macchina una targa digitale, a tutti gli effetti, anonima, quindi non abbiamo nessun problema di privacy. E con questo RFID ci permette di entrare rapidissimamente all'interno di tutto quello che è il back office e le regolamentazioni associate all'RFID. Quindi questo vuol dire che quando uno entra nell'area zona a traffico limitato, ad esempio, sì, viene tracciato con questo RFID, cioè che è un chip a radiofrequenza, ci sono delle antenne che riescono a capire se una macchina passa o meno. Ad esempio l'RFID lo utilizziamo anche per rendere intelligente il pass disabili. Quindi grazie all'RFID il pass disabile diventa un elemento tracciabile dal punto di vista digitabile, certificabile e verificabile in tempo reale. La targa non è sufficiente, la targa dell'autoveicolo? La targa dell'autoveicolo è sufficiente, ma in un contesto oramai completamente digitale troviamo assolutamente analogico il passaggio dalla targa analogica a un sistema digitale. Quindi quello che noi appunto già proponiamo da qualche anno è l'integrazione della targa analogica con una targa digitale a tutti gli effetti. Sì. Io quindi mi devo dotare di questo RFID se abito in una città che adotta il vostro sistema? Sì, infatti i nostri clienti distribuiscono e sostituiscono i vecchi permessi tipicamente cartacei con i permessi digitali. Questo dà all'utente, fra l'altro, un beneficio enorme, che passando all'RFID l'utente non deve andare ogni anno o ogni 6 mesi, in base alla durata della propria autorizzazione, allo sportello del comune o dell'azienda di mobilità, ma va online rinnovando e pagando o chiedendo modifiche direttamente online. Ah certo, perché una volta che è taggato quello rimane. Esattamente. È una targa digitale di fatto. È una targa digitale. Quindi voi avete, diciamo, la municipalità deve mettere delle antenne lungo tutto il percorso cittadino. In base ai tipi di processi, di servizi che la città deve gestire, ad esempio faccio l'esempio del comune di Verona, ha utilizzato, ha chiuso le tratterelle con gate RFID, quindi con antenne RFID, e tutta la permessistica di Verona è passata su RFID, e in questo modo abbiamo anche dei dettagli molto precisi sull'utilizzo, l'ingresso e l'uscita dei veicoli in ZTL. Certo. Ho accennato poco fa ai sensori di parcheggio. Sì. Che cosa si può fare con un sensore di parcheggio? Allora, i sensori di parcheggio servono per rilevare l'occupazione o meno di un parcheggio. Quindi una volta sensorizzato, quello che facciamo con questi dati sono o fare servizio di infoparking per l'utente, quindi indirizzare l'utente nelle aree dove è più probabile che i parcheggi siano disponibili, o lato municipalizzata produrre delle mappe di occupazione della sosta per arrivare a quello che è uno dei servizi che noi ci aspettiamo di poter fare nell'immediato prossimo futuro, la dinamicizzazione del prezzo della sosta in base a domanda offerta. Certo, anche in base agli orari del giorno, eccetera. In base agli orari del giorno, in base ai comportamenti, ogni città alla fine ha un carattere e quindi i sensori servono in qualche modo a misurare e a costruire questo carattere. Una volta ottenuta la caratteristica di una città, è abbastanza ovvio, credo, per chiunque capire che non ha senso che in alcune aree si paghi la mattina presto, come in tarda mattinata, nel primo pomeriggio o dato opposto. Quindi i sensori servono a ottenere queste mappe comportamentali, caratteristiche della città, e poi costruire delle mappe di tariffazione in base a domanda offerta. Sì. Ti faccio una domanda sul famoso concetto dell'auto connessa, della connected car. Sì. Nei prossimi anni, diciamo, siamo alla vigilia di una nuova generazione di automobili che saranno sempre connesse. Di fatto, quando le auto saranno tutte connesse, tutta la parte, diciamo, di RFID verrà meno, perché l'auto sarà già connessa di suo, giusto? Allora, grazie per la domanda, perché in effetti è lì dove vogliamo arrivare anche noi. Mm. Ossia, il giorno in cui una macchina o tutte le auto saranno connesse, dove dico tutte, per noi è importante, perché noi dobbiamo sempre offrire tecnologie e servizi che siano per tutti i veicoli o per tutti gli automobilisti, quindi non possiamo considerare solamente flotte più innovative di auto. Quindi quando saranno tutti i veicoli connessi, a questo punto il nostro passaggio sarà di portare i servizi direttamente sul cruscotto dell'auto. Quindi in questo momento noi utilizziamo smartphone, quindi app o web, ma sappiamo benissimo che nella nostra visione un veicolo che entra in una città si dovrà connettere all'infrastruttura di servizi della città, e i servizi a questo punto dovranno essere disponibili direttamente, immediatamente sulla macchina, su qualche terminale della macchina. Sì, questo è un tema molto bello, perché abbiamo toccato l'Internet of Things, le auto connesse. Se uno pensa a tutti i dati che vengono raccolti, abbiamo toccato anche il tema dei big data. Se uno pensa all'analisi che si può fare di questi dati, pensa alla business intelligence, agli analytics, eccetera, eccetera. Voi lavorate già da alcuni anni, ma siete ancora una startup, giusto? Noi siamo una startup innovativa, perché ci siamo costituiti nel 2011, e il percorso che abbiamo fatto è stato quello, prima di partire con la startup, di autodimostrarci che avessimo sia le competenze che il mercato. Noi intendo i soci fondatori di Chunsys, e quindi dopo qualche cliente acquisito prima del 2011, nel 2011 abbiamo deciso di costituirci come azienda specializzata soltanto nel mercato della smart mobility, dello smart parking, e di diventare startup innovativa. Sì, e avete appena raccolto 500.000 euro, ma io dico sempre, per le startup 500.000 euro sono una bella cifra, ma sono pochi rispetto a investimenti che vengono fatti in altri paesi del mondo. Quello della bassa capitalizzazione è effettivamente un problema? Nel mercato in cui si muove Chunsys, assolutamente sì. Poi non ho, diciamo, la competenza per conoscere altri mercati. Nel nostro mercato le aziende sono aziende internazionali con le spalle veramente, veramente robuste. Il fatto di avere alcuni clienti, di aver vinto alcune gare, dimostra da un lato la nostra competenza tecnologica, ma sappiamo benissimo che quando usciamo i nostri referenti più diretti sono aziende e strutture con capitalizzazioni decisamente più importanti. Quindi noi consideriamo infatti questa raccolta come un primo passo che da un lato ci ha dimostrato la validità dell'offerta dell'azienda, dall'altra parte già siamo tutti a conoscenza del fatto che è il primo di una serie di passi di strutturazione aziendale. Molto bene, io ringrazio Paolo Lanari per essere stato con noi, a presto e in bocca al lupo. Grazie a tutti, grazie. In questi minuti di fatto abbiamo toccato molti dei temi di cui parliamo a 2024. Abbiamo parlato di Internet of Things, perché se facciamo riferimento all'auto connessa, beh, la Internet degli oggetti, tra i tanti oggetti connessi c'è anche l'automobile, oppure ad esempio i sensori di parcheggio, beh, sono oggetti connessi, tutta l'infrastruttura stradale è piena di oggetti che potrebbero essere già oggi connessi. Abbiamo parlato anche di fatto di big data. In questo modo, digitalizzando il sistema di traffico all'interno di una città, si possono raccogliere tantissimi dati e su questi dati si possono fare delle analisi per scoprire, ad esempio, come cambiare, come meglio gestire poi la mobilità cittadina. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, riprendiamo tra poco per parlare di eredità digitale, un argomento estremamente interessante, ne scopriremo delle belle. A tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi è 2024@radio24.it. Prima di proseguire di parlare di eredità digitale, volevo ricordarvi che già da questa settimana, ma dalla prossima settimana e anche nei prossimi mesi fino alla primavera, ogni giovedì con il Sole 24 Ore a 50 centesimi in più rispetto al prezzo del quotidiano, trovate una serie di libri, un libro ogni giovedì, per raccontare e spiegare le innovazioni che stanno rivoluzionando la vita di tutti i giorni. Questa settimana abbiamo parlato di robot, continueremo a parlare di big data, di sharing economy, di tante altre cose, insomma la lista è molto lunga. Questo ogni giovedì con il Sole 24 Ore, sempre per le iniziative del gruppo 24 Ore. Vi segnalo il viaggio, la prima puntata, la prima tappa del viaggio nell'Italia che innova a Bologna il 30 di novembre e il 1 dicembre. Maggiori informazioni sono sul sito del Sole 24 Ore, ilsole24ore.com. Adesso parliamo di eredità digitale. Per domandarci che cosa succede a tutti i nostri contenuti, alle fotografie, ai documenti che abbiamo archiviato online, al nostro profilo sui social network, su Facebook, alle cose che abbiamo salvato, i documenti che abbiamo salvato nel cloud, che cosa succede una volta che non ci saremo più? Uno potrebbe anche toccarsi o toccar ferro, però una delle cose certe della vita è la morte, e quindi insomma bisogna parlarne, anche perché bisogna fare qualcosa prima che arrivi quel momento, quindi bisogna pensarci prima. Francesca Milano è una mia collega, lavora alla redazione Norme e Tributi del Sole 24 Ore. Ciao Francesca, benvenuta. Grazie. Ti faccio subito dire una cosa sul vostro lavoro. Voi vi occupate di norme, di leggi, e sempre più negli ultimi tempi vi dovete occupare di cose che hanno a che fare col mondo digitale, giusto? Sì, assolutamente, perché in realtà il mondo digitale, come dicevi, sta prendendo piede nelle nostre vite quotidiane, non soltanto i social network, non soltanto la posta elettronica, ma anche dei veri e propri beni che compriamo ma che sono digitali e che in qualche modo vorremmo poter lasciare ai nostri eredi, come lasciamo i nostri libri, come lasciamo i nostri vinili e tutto il resto. Sì. Quindi ci occupiamo di questo perché cerchiamo di capire cosa sta facendo il legislatore per andare incontro a queste necessità. Poi ti chiederò che cosa sta facendo. Oreste Pollicino insegna diritto dei media alla Università Bocconi di Milano, benvenuto. Grazie. Esiste una norma specifica o siamo ancora molto molto indietro da questo punto di vista? Perché è un mondo di fatto nuovo. Ma infatti, come si diceva prima, una questione delicata del mondo di internet è che, a differenza del mondo analogico, del mondo degli atomi, potremmo chiamarlo, nel mondo dei bit non ci sono ancora delle pratiche normative unitarie. Faccio un esempio specifico proprio con riguardo al nostro tema. Nel 2015, in agosto 2015, è entrato in vigore in Italia un regolamento europeo che armonizza le pratiche di successione, cioè consente a chi risiede nell'Unione Europea di organizzare in anticipo la propria successione come meglio ritiene, ma nel mondo analogico.

temi da seguire, sia per esprimere il proprio parere, le proprie considerazioni. Cerco di rispondere a tutti, ma purtroppo non sempre è possibile, o magari la risposta arriva dopo settimane. Ci risentiamo alla prossima puntata. 2024.